Good job. Hey, Johnny. Hey, I tell you. Un caso. Caso c'hai, come mai? Oh, questo caso fesso. Se non può di nubi, raccontate voi. Ma perché tu, raccontate sì. No, c'è leggermente fresco fuori. Sono uscito e c'è un poco di vento, Ehi, vabbè, fuori, chiaro, fuori c'è freddo, ma questo caso è da casa. Io ho questo caso per cui ce la sto facendo, per cui, a voi a caso qua. Minchia, va bene allora. E c'è la stufaccenda, c'è anche per i porcetti. E quelli va là, io, quelli no, quelli non ci sono, però... Ah, tanta cosa, non mi preoccupo per quello, capito? Ah, perché ci rivolgo? Fame ci vuole, ci va quella fame. E la fame, e l'appetito che vuoi, Sartore? Ascolta, Sartore, sapevo il controllo di radio, com'è questa qua? Allora, Saturno mi ha messo questo microfono dell'approccio, quello manuale. Com'è? Sì, leggermente compresso. La verità sembra che sia attaccato con un lineare. Compresso, vediamo un po', sì. Allora passo il marchigliere un po'. E adesso bene fa? Si è abbassato il radio e la radio è molto più fine, toni alti. Allora bisogna, aspetta. Adesso ho abbassato la rotellina. Com'è adesso? Non mi piace, no, quel microfono. Non mi piace. Non ti braglio. E adesso com'è? Sempre complesso, se non ho capito perché. È strano. Sì, vabbè, anche se abbassi il macchino all'apparecchio non gli va la morte, ti sei abbassato di tutto, di radio e basta. La cosa non è che solo per il macchino del baracchino e solo per l'amplificatore del microfono. Faccio vaccini. Prova avanti. Con compenso sì. Cos'è un po' le ciao, buonasera. Ho detto baci e bacini, Antone. Li hai cambiati, Antone. Come senti Giorgio Maria, di radio? Ah, sinceramente, lo c'è adesso, senti, ma sì, il segnale c'è, ma non c'è radio. Non c'è lui. Ogni volta dà quel problema del microfono. Ricordati per domani, Antonemi. Chiamavo il consiglio Gusano, la verità, perché sono abitato a cena e non so come ritorno con il vino. Spero di non beccarmi. Bene o buffo, bevi il giusto, Antonè, gioca senza esagerare, no, così dice la pubblicità, dunque, bevi senza esagerare, Antonè, sei abbastanza grande, non te lo devo dire io, vedi un po' tu. Avanti, Gio Maria, buonasera. Ok, buonasera. Com'è questa radio? Questa radio, dai. Non si capisce bene come radio, il segnale c'è ma rimane molto distorta come modulazione, cambiati, vai. E allora bisogna regolare. Sì, complesso, non ho capito perché se poi c'è linea attaccato un BV, cioè no un BV, uno di quei linea transistor che c'ha un sacco di pilottaggio, complesso un bel 27, come se fosse leggermente salto. Stiamo mangiando la radio più che altro. Io che me ne sto. Avanti, avanti, c'è posto per tutti. E me ne sto. Ogni tanto devo avere il culo. Buonasera lì. Buonasera Gianni, mi hai sentito? Se vediamo. tanto c'è un casino, quello che prega là. Avanti anguilla di ossi e lei lasciala piangere, c'è mia figlia che piange, che è il momento di cambiarsi, ma non ne ha voglia, vuol dire due schiaffotti gli diamo, tanto per scaldare le mani che c'è freddo. Buonasera, che a te il tireddu. Mio amico, quando sentiva la figlia così che rompeva le scatole di Natale, apriva la finestra, la faceva strisciare nella neve, poi la recuperava con una lenza. Vedere se studiava, specialmente. Poi non fare così, se no l'abbia sentito un'altra. Se la fai strisciare lì in discesa, come la fai recuperarla? Siamo in gallerie. E la recupera, non fa problema, lo penso. Un ragazzo ingegnoso, Antonello, quindi già. Però sai come fare, avanti Antonello. Che sta prendendo la figlia, evidentemente. Siamo una di ripiglia, te l'ha cambiato le microfone. Hai detto a me? No, ho già fatto, già dato dei peschi a fotti, stavi dicendo? Stavo dicendo già, dice che ci vuole. Un amico suo, mentre quando faceva il cavolo alla fine, ci la metteva fuori dalla finestra, la faceva strisciare per la via. Quando c'era neve, però, c'era una lubrificazione. Ma di solito si usano quelle canne da pesca che usano nelle imbarcazioni, no? Con filo grosso e mulinello a recupero, con ingranaggi, diciamo così, ridotti. Fa un po' di forza, insomma, una bambina la recupera. Senti tanto, Io ho sentito che padre modello, bisognerebbe dargli una medaglia, comunque. Speriamo che sia morto, questo tipo. Fatto sta, il grande Don Tonino, l'hai sentito ieri, no? Che ci siamo sentiti. Ti ha salutato pure, gliel'ho detto. E niente, non entra nella 27 MHz. Un giorno, qualche giorno che ci mettiamo d'accordo e si farà sentire. Provvisoriamente non ha troppo da fare. Lui entra solo quando ho un po' di tempo, adesso è impegnatissimo in varie cose, ha preso anche altri lavori, quindi. Ah buono, dai, già va bene, forse che le cambi i miei saluti. Dov'è sempre Haiti, scusami, è tutto bella. Due giorni ci manca tutto bella, adesso è in curia a Sassari e poi anche all'ospizio. Adesso è impegnato parecchio. È buono, dai, già è sempre una persona abbastanza attiva, sono contento. Avanti Antonello Pomponio, detto Alessio Ciucucciù. Dice dato di Napoli, e invece dicendo a quel CBD di Itri che faceva il prete Aussi. E a lui, è stato lui a, come si dice, a mettermi la mano in testa nel fatto del CB. Io ho iniziato a modulare quando ho conosciuto a lui, dunque nel 93. Già dall'epoca ho iniziato a conoscere là il baracchino e da lì è parte tutta la situazione. Mi ricordi? Bello danno. Assolutamente no, guarda, mi sono veramente, all'epoca mi sono veramente divertito con un Torino, e non ce n'era, guarda. Sì. Oh, amici di Bocchende, come ti arrivo lì, Ali? Va bene, mi arrivi qua, non c'è problema, venti, sì. Io sei divertito, Torino, a voglia, tu hai sempre discoteca, ne fai un cazzo della chiesa, la mattina andava presto, prima, andava a San Paolo, tutti a fare il piso, andava in giro. C'era un prete giovanile, non di quei distretti come quelli una volta, che vai a fare che chissà che cosa, ma era molto aperto. Ma sapete come devi adesso, mi li vedi sempre in giro per le cose. Se ce la faccio qualche piuttosto da così se la fa, non gliele fotte nulla. Così vuole. Così dovrebbe essere, ecco, la fine, la giovanile tra delle persone e via dicendo. Ma c'era anche Dio Giovaria, non lo so se ha cambiato apparato o microfono. Sì, ce l'ho qua. Adesso sento, vedi. adesso sono io, adesso come Antonè. Adesso va bene, quel microfono là evidentemente non l'influenza, ma va bene per quel Saturnecco. E ti dà la modulazione esatta, ha capito? Se sembra compresa, come si fosse usando un lineare. Ok. Va bene, tu cambiare. Bene, Gianni, buonasera. Buonasera anche a lei. Ben sentito. Bene, risentito. Ecco qua, come mi sente in quelle vallate? Troppo bene, benissimo. Bene, ah, ce l'è freddo. E allora, capito. Qua pare che non ce ne sia di stufa, diciamo così, per le nuvole. Che tutti che duca, a voglia. Si è abbassato parecchio. E lì ci tocca poi, tu sei lì proprio sulla punta, bisogna essere attrezzati in casa, già, sennò voglia. La mia dalle due accese, ci sto bene, siamo abbastanza caldo, per cui c'è una temperatura ottima e si sta veramente bene. Ok, riprendi. Positivo noi ho 26 gradi, 24 solitamente, no, qua se abbiamo il centralizzato che è allucinante, abbiamo una caldaia mega galattica, l'abbiamo comprata all'inferno. Ultima, quella probabilmente buona. Ah, ce ne va una cura avanti. Se state buoni vi racconto una barzelletta, zio Marino. Dai, facciamo qua, se non hanno pazienza. Allora, in pratica, che cosa è successo? No? Si parla di due amici che si sono incontrati, però si sono incontrati morti. Mi stai ascoltando, Giovanni? Oh, ecco. Allora, te la dico proprio giusta. Praticamente questo tizio muore e va in paradiso, no? E dopo pochi secondi incontra un altro signore che dovrebbe essere questo suo amico. E questo era appena arrivato all'aldilà. E gli chiede, scusi, posso sapere come è morto? Mi stai seguendo, Giovanni? Dai. Posso sapere come è morto? E il signore gli risponde. Non ci crederai mai, ma sono morto congelato, Cat. È quello, congelato. Perché? Come mai? Ma è terribile. E lei invece, come è morto? Quello gli fa la domanda. Beh, io sono morto di felicità. È quello. Ma anche la sua non è una morte tanto comune. Sa, lo so. E vuole sapere come è successo? Quello mentre avanti dice, può anche dirmi, racconti. Racconti pure, ecco, mi trovavo nel mio ufficio quando mi arriva una telefonata del mio amico che mi avverte appunto che mia moglie è con un altro uomo. Mi precipito sulla macchina e corro a casa, apro la porta e trovo mia moglie tutta sola, intenta pulire il pavimento. Sono morto di felicità. L'altro lo guarda sbigottito ed esclama, che stupido sei stato, potevi aprire il frigorifero e ci salvavamo entrambi. No, non avevo sentito ancora quella, bella. La sai quella del concorso dell'elefante l'uccello? Dai, Antonio sta ascoltando, tutto ricchi, Allora, in pratica l'elefante fa il concorso dell'uccello più grande, si mette a un certo punto in una piazza, tira fuori il suo attrezzo, lo mette lungo così sulla piazza, a un certo punto tutti meravigliati iniziano a correre. Il coniglio prova, non c'era verso, e l'elefante, ma cosa? Un coniglio. Arriva l'asino, la mette sopra, niente, nulla, non c'è stato verso, allungando, facendo, pestandola, tirandola, niente, nulla. L'elefante, arriva la giraffa. Niente, non ci arrivava neanche col collo, quella dell'elefante era lunghissima. A un certo punto arriva questo coniglio con un cane, niente, nulla, neanche così. No, di colpo un colibrì. Il colibrì. E si posa sull'uccello dell'elefante. E le fa l'elefante, dice, ma che vuoi? dice io sono venuto al concorso per gli uccelli, e quello dice andatelo fuori, e quello gli fa dice ricordati che tu sei un elefante attaccato all'uccello, io invece sono tutto uccello. Aveva ragione quello lì, quell'uccello, aveva ragione. A te non è piaciuta a te. Caracaba. È quella di compare Toppo, nessuno la conosce. No. Te la racconto subito. In pratica questo Toppo era nato per puttaniere. Questo Toppo era un animale che si faceva tutte quelle del villaggio, no? Galline, serpi, cani, di tutto. Un bel giorno comare Gallina lo vede e gli fa, oh compare Toppo, perché lui scendeva in piazza, no? Ogni giorno. Compare Toppo, come sta? Che bello! Sa, non l'avevo mai visto così in forma, sapesse, mi sono fatto sua cugina, va bene. L'indomani lui scende in piazza e trova la coniglia. Oh, compare Toppo, bello lucido, al pelo che sembra, manco all'estetista. Sapesse, mi sono fatto la sua coniglia, va bene. Ora, nella favola, un bel giorno, scende comare Gallina in piazza e incontra il Toppo. Compare Toppo, perché avete gli occhi allonati di nero? Siete tutto giù. In pratica il Toppo era un angolo, tutto crepato. E le fa, se sapesse comare Gallina, ho incontrato la giraffa. E fa, dice, beh, ma qual è il problema? Cazzo, tutta la notte, Nacchi, leccami il culo, baciami la bocca, leccami il culo, baciami la bocca, immaginatevi quanto è salito e sceso. Tutta la notte così era, no? Beh, se li scendi, no? Che vado? Barracco! Ehi, ascoltando, Tappo, c'è anche un break di sottofondo. Di sottofondo e non di sottofondo. Avanti il break con la buonasera. Sono tutti, Giovanni Piru. No, c'è anche un altro, Mondino, sei tu. Allora, sei Piero Dinneschi. Praticamente sembri un arbitro incazzato, tutto pieno di fischi, te lo sto dicendo, inneschi. E sì, ti porti dietro dietro una sorta di rientro ref sul micro. Ecco, così va bene. Butta la mondetta. Molto pieno di rumori, sei pure i lineari commerciali, lo sappiamo che, che cosa sono. Tutti trappole per baldracche. Fermati così va benissimo, almeno ti sento recentemente. Prima di cui capita. Buonasera Mondi, ben sentito. Compreso. Andiamo avanti. Allora, sto parlando con Pompugno, Sassari, Antonello Anguilla da Ossi, poi c'è Gio Maria da Buscendorra, e chi siete lui pellicciato di doppio rum da Sassari. Quale voi? Aizetta, Anguilla sei tu, Antonello Barracuda da Ossi. Antonello Anguilla, cosa Barracuda? Perché Barracuda? A me Barracuda non mi piace, è troppo aggressivo. Vabbè, sai, l'apparenza inganna, e l'abito non fa il monaco, e se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Questa vuole capita, ragazzi, questo non è un rebus. Questa è uno scioglicranio, va bene, Antonello Barracuda. Avanti, Mondi. No, ma c'è Antonello Tilighessa lì che non vuole demordere. Niente, nulla che vuole fare il Barracuda, ma gli ho spiegato che non ti sente. Prova Antonello a venire avanti. Antonello Barracuda, avanti. E sicuramente, vabbè, adesso sono liscio, sono scollegato. Comunque lo sento piccolo piccolo. La cosa sta modulando. E allora arrangiatevi, Dalghero, scusa. Io fai l'aggressivo, li fatti sentire, se no ci gusto. Dalghero, Mondi, prova a vedere come lo senti. Ok, sentiamo dopo, va bene, poi ragione Deoga, avanti Antonello. Sicuramente lui ha qualche problema, io riesco a sentirlo. Si vede che è in condizioni non tanto favorevoli, avrà qualche antenna così. Niente di particolare, perché io bene o male Dalghero arrivo bene. Tutto lì, poi c'è anche zio doppio rum, avanti zio. Ehi, ciao Antonello, ciao tutti gli altri amici, dai, buonasera, mi sentite tutti? Allora, restate al calduccio, io vado a lavorare, così è. Ma che oggi lavori? Sto lavorando, Antonello, ieri sera mi ha telefonato all'ultimo momento, ma sto lavorando, tutto il giorno. Vabbè, sicuramente in questo periodo sarà necessità, dai, un altro po' di settimane, e poi già ritorni al ritmo quotidiano. Va, va, va, va. Non ci lamentiamo, non sto scherzando, va. Se devo andare, vado, non c'è problema. Oh no, ricordati domani, già sei libero, sì. Sì, sì, sì, non bestemmiare. No, no, no, assolutamente. Avanti, Antonello Pomponio. Ecco, sono tutti attenti oggi, tutti, strano, i soldi italiani che furono, tanto salvato, ci sono tutti, anche i medici sono attenti, figurati, c'è crisi, stiamo arrivando all'era di aprile, vedrai, apriremo anche il 9 mattina di Natale, te lo dico io, perché non si riesce più a vendere un accidente che non bisogna. Proprio per quella cosa apria il 25 di dicembre, è una grande spesa per i fondelli e comunque stanno tutti a casa, la spesa se la fanno sempre una settimana o tre giorni prima della vigilia, sono un sacco di cattate, Antonio, non sanno dove attaccarsi sinceramente, comunque chi vi va vedrà. Avanti, Zio Giomarì. Io dico solo questo, a quello bisogna mandarlo a casa direttamente perché sta rovinando l'Italia, bisogna prenderlo con guinzaglio e portarlo a casa e mette la testa in terra, vedrai che dopo si rimette a posto tutta l'Italia. Bisogna fare come tutti, Giovanni, come tutti qua, bisogna deve salvare neanche uno se vogliamo risolvere un po' la situazione. La sopramodulazione, in due tante avete parlato già, comunque buonasera, ben sentito. Ma facciamo Giovanni, ho detto che quello se ne frega di tutti, ha detto la crisi c'è e io mi aumento lo stesso lo stipendio. Ridendosi in nera, ancora il vicino, ridendosi in nera, faccia nostra. Ma tu ti immagini che ha arruinato l'Italia, dici che era prima e secondo. Mi pare che è che la arruinati. Ma tu te ne immagini, cazzo, eh? Cazzo, boh, non abbassa, comprendi? Ma, lasciamo il fare, sennò fa di pizzo. Avanti, Gianni. L'italiano è un gran coglione. L'italiano è un gran coglione ed è cliente del politico, praticamente fa clientelismo perché non sa manco quando va a votare cosa vuole. Poi sta lì a piangere, io sono di destra, centro-destra, centro-sinistra, sinistra. Non sa manco cosa fa quando va a votare, compreso io, cioè un branco di salami, pecore, tutti lì. Poi danno le colpe al politico, ma se il cittadino è sovrano, perché non sceglie bene, piuttosto che dire come ha detto Antonella adesso, prendiamo il mitra, sì, tutti morti, i politici vogliono tutti morti, andiamo a Ossi, prendiamo il rettore e facciamo camera e facciamo politica e Antonello lo mettiamo in un piedistallo a mitragliare tutti i politici. Ecco cosa sa fare l'italiano, sa solamente dire vogliono tutti ammazzati, sono tutte puttanate, sono questo, sono quello, mentre che non si rende conto che il momento giusto è quello del voto, non dire come fanno certi, non vado a votare, le faccio il dispetto, vogliono tutti ammazzati, sono tutti uguali, non è vero che sono tutti uguali, non è vero, sicuramente bisogna controllare gli stipendi, bisogna regolare molte cose, ma non sono tutti uguali, ricordatevi questo è il danno per rovinare l'Italia, era stupidi dire che sono tutti uguali, ed era stupidi anche non andare a votare, più stupido ancora chi legge i quotidiani, chi guarda le TV, perché i media sono bombardati e bombardano noi, e ci fanno più ignoranti di quello che siamo, se c'è qualcuno che è in grado di dirmi perché va a votare, io sono qui, che alzi la mano. Votate Cicciolina, è molto meglio, almeno ve lo da gratis. Il partito dell'amore, il partito dell'amore. Votate Giuseppe Ferrero, Antonello Ambidda e Gio Maria Lugandiru. Il rimavi. Ma no, mica c'è Mondino, ai! Siamo circondati da cervella fini in Italia. Ai! Le prossime elezioni saranno un incanto, cazzo! Mondi, buttami in mare! Mondi, vai avanti! E c'è Sbomborio! Avanti a lì! Ciao arriva qua, non lo so chi è, ma dov'è, in qualche cosa, il mondino, salutoni, non so se mi senti, aspetta che sta, mi ammazzano qua, non ti sento, per niente proprio. Compa, compa, mettiti in alto, non senti quello una volta, non so cosa ti sia successo, mettiti in alto. Pio, da Santiago 3, Radio 2, una cosa del genere. Non riesco a tirarlo fuori. Faccio un attimo di bianco, ci sentiamo dopo. No, ci sentiamo dopo, con probabilmente. Avanti, Ali. Piacciato, ci sentiamo dopo allora. Avanti, Gio Maria. Un attimo, forse il telefono. No. Era il ponte che si stava eccitando, un aggiornamento alla Monti, hai messo le tasse, hai chiamato il Trotta, ha preso le 5.000 euro settimanali come paghetta, me ne so male l'italiano è proprio cliente del politico, facciamo clientelismo ragazzi, decidiamo di mettere le bombe nelle nostre tasche, mettiamo il coso, facciamo la Sardegna indipendente e diamo tutta quel tipo, come si chiama? Dove c'è Baffetti, il presidente di Malvento, siamo tutti al presidente, facciamo presidente a lui e siamo a posto, noi facciamo la Sardegna dipendente ed imprenditista, prendiamo il caro Donati, mettiamo Papa Torres, il primo che arriva, come quello che ci ha dato via che gli ricordo la voce, lo seguiamo. Ah, il Malvento. Altro gruppo di cervella fini. Ah, il Malvento. Ma già siamo circondati da cervella noi, non è una cosa da niente, no, quella che sta succedendo, ma figurati. E poi bisogna sperare in un futuro migliore. La Sardegna è già 45-50 anni che dovrebbe essere una regione a statuto speciale e invece l'abbiamo scritto nella carta igienica. Ma che cos'è la Sardegna? La Sardegna è il gabello dell'Italia, è sempre stata così. E noi siamo i peggiori gestori di questa terra così, diciamo, isolata e malconcia. E basta. Uno che ce n'era di politico recente l'hanno mandato via, adesso c'è quei cappellacci, quell'idiota, quel pezzo di delinquente assemblato da Berlusconi. Ah, e allora, capito? Uno che ce n'era recente l'hanno mandato via. Oh, ioi! Quindi purtroppo le cose vengono e... Uiaia, ci voleva partito unico Sardegna, partito indipendentista sardo, l'unico, capito? Poi siamo andati tutti a Roma a rompere le balle, siamo andati la Sicilia a fanculo, perché noi siamo attaccati alla Sicilia, se cos'è quello. Non possiamo fare un accidente noi. Quelli fuori, quando ma non se la vende, non è? Adesso che è arrivato quel, come si chiama, quattro fetta. Diciamo che su dice adesso mi compro tutti i sabbi che la metto da tutti dietro. E allora, nazione indipendentista, l'unica soluzione, già lo so io cos'è, vota Pisdazzo, partito sardo nazione. Ah, quello sì che è un partito, vota la Margherita, vota il sole, vota 25 cazzo di partiti che vi spacchino la testa, italiani ignoranti, 25 partiti, cazzo l'America che è l'America, la buristi e conservatori, vergogna, ecco che cos'è il grand'anno, vergogna, ecco che cos'è, l'italiano parla tanto, non capisce un cazzo, neanche quando va a votare. Io te l'approccio, avanti Gio Maria. È proprio così, Vediamo un po' Gianni dove è arrivato, Gianni. Sono arrivato lì al bivio della 131, non è che sta dicendo cose, cagatela, sta dicendo cose vere, Gianni ha ragione. Purtroppo siamo così, molta gente, è vero, dalla compagnia dei partiti dopo che li ha votati, eccetera, eccetera. Una cosa già, adesso ci sono anche i grillini, quell'altro pazzo Italia e inizia a piantare cazzate quell'altro, a dire vi facciamo il culo così, a chi? Che è un uomo stupido, quel grillo è un altro stupido. Colpa degli italiani, gli italiani dovrebbero smettere di fare del pecore dietro a gente del genere, capisci? Ve lo ripeto, i media, i quotidiani sono una trappola per chi va a leggerli. Chi vuole conoscere la politica deve prendere un libro e deve leggere. È lì che la politica non è scritta nei quotidiani, datemi retta, che qualcosa la so. Grazie a Dio qualcosa la so, ma vi garantisco che i quotidiani sono una trappola per il lettore. Sono quelli pilotati, sono quelli più brutti, quelli che si sono mangiati tutta l'Italia, eh? E la gente, lo sapete cosa dice? Ali che siete vivo di fitti sono la Sardegna. Ali che siete vivo di fitti sono la Sardegna. Chi cappellacci ha avviato il suo travaglio si salvia. Chi cappellacci non si fa tende la rigutto, non si fa tende la rigutto. Teste di cesso. Sardi, teste di cesso. Sono tutti uguali, sono i politici, non hai capito nulla. Io sono solo a sedersi lì nella poltrona e a dirsi le cose apparenti. Le cose quelle. Don Mario. E ma infatti questi partiti, beh siamo noi che li stiamo facendo i partiti, perché noi li votiamo e quelli cercano di tirare avanti il più che possibile, capito? Siamo noi ignoranti che li mettiamo appresso veramente del giusto, come ha detto Gianni, capito? Siamo noi, li votiamo e loro fanno quello che vogliono. Gli ha permesso uno stipendio base di 18.000 euro. Chi gliel'ha permesso? Nessuno di voi sa che prendono di base 18.000 euro, ma io lo so. 18.000 euro, poi diventano 30.000, cazzo! 30.000 euro. Monti prende 305.000 euro l'anno. Un somaro che non è riuscito a far quadrare tutta l'Italia nel suo conteggio nazionale, l'ha distrutta a livello economico, l'ha disintegrata. 305.000 euro per dare testate da somaro nei banchi lì del Parlamento, fanno schifo. A Montecitorio, ve lo dico io cosa ci vuole, uno, un sardo con un camion, un 40, carico di tritolo, l'ultimo punto, il kamikaze, lo mettiamo di dove? Di Tortolì, lo buttiamo dentro, cazzo, lo facciamo esplodere, il kamikaze di Tortolì, non c'è altro rimedio. Quello bisogna fare, allora, quello bisogna fare. Quando ci sono tutti dentro, però, quando sono tutti dentro. Bisogna scegliere, ma siccome l'italiano non ha neanche i soldi per comprarsi il chewing gum ultimamente, ma quali armamenti? Ma non solo l'italiano oggi è capace di scatenare una rivoluzione, ma non è capace neanche di andare in bagno a caccare, questo ve lo dico per scontato. E dal nulla nasce un fico secco, l'anno prossimo nasce la rogna sulle casse dello Stato. Tutto a posto, tutto a posto! È passato il 2012, i Maya si sono sbagliati, adesso arrivano gli aztechi. Eccoli qua, un'altra previsione, non finisce il 2012, finisce il 2013. Ma quanto è imbecille la gente, con questo cazzo di fine del mondo mi hanno rotto i coglioni! Sempre con le solite storie delle stupidaggini una sull'altra. La fine del mondo, è arrivata la fine del mondo! I Maya, preparatevi ragazzi, preparatevi! Anche la Fiat vende la palla fine del mondo! Ce ne sono, tutti approfittano di questo perché siamo coglioni, siamo dei grandi coglioni, tutti crediamo in queste cose, perché non guardiamo e leggiamo i libri? Perché non ci guardiamo in faccia? Non esiste Dio, non esiste il paradiso, non esiste niente, non esiste nulla. Hai ragione, Gianni, doppio lungo, Gianni deve essere arrivato a destinazione. Riprendi il trattone, riprendi. Oh yeah, stiamo andando bene. Ma dice che sta crescendo, mi sembra che stiamo peggiorando invece. Vai Antonè. Sta crescendo la fame? Sì, andiamo a dare il culo, sto facendo. Sono un po' di tempo. Adesso si è addufato un'altra parte, ti andiamo a dare il culo noi. Prima bisogna passare sistemare le banche. Dopo abbiamo sistemato le banche. Allora, vedrà che mangerò qualche cosa. Purtroppo le banche li subiremo, non avrebbe sicurato neanche una riga, ma le banche sono tranquillo, siamo fatti il mio come la volta. Mia di carciofi, un po' di aranci, solo così quando va bene mi affare. Altro per soldi. Ma tu renditi conto, quel Draghi è un delinquente, quel governatore lì è un delinquente, quel Draghi, eh? Quello vorrebbe impiccato quel Draghi. Ma se sono le banche che creano inflazione, deflazione, disoccupazione, fanno quello che vogliono. Ma non vedete che noi siamo in mano alle banconotte? Ve lo dice la stessa parola. Non esiste più il primo soldo italiano, dove era del popolo, era un denaro del popolo. Poi mano a mano è passato banconotte anche lui, dopo la linea dei Verdi, dove c'era nel 1000 c'era il Verdi. Ecco cosa abbiamo fatto. Siamo stati capaci di farcela mettere dietro a tutto andare. E adesso cosa vogliamo? Cos'è che vogliamo? Vogliamo che dal nulla nasca un fico secco? O credete che quando votiamo, se votiamo giusti, se votiamo giusti, siete contenti subito Antonetto? Anni, passeranno anni e anni, minimo 20 anni, ma per vedere appena appena un filo di luce. Ma scusate, ma se abbiamo una popolazione di tot, gli stipendi ce ne sono esagerati, chi ne prende 3.000, chi non ne prende niente, chi non è pagato, chi è incasinato, gli stipendi dei politici sono quello che sono, il giro del lavoro non esiste perché non esiste più, o perlomeno quello che c'è quello, non ce n'è altro, lo dividono in due, fanno il part-time e si decidono a dividere quello che esiste, o altrimenti sono tutte frottole. Io so questo. Il problema è che bisogna votare bene questa volta, bene veramente, ma bene veramente, e cercare di capire che cosa si può fare con quello che c'è già, non raccontare agli italiani nuove barzellette, nel 2013 nuovi posti di lavoro. E cazzo, ma si sono riombuito! Non ce ne sono soldi, non hai capito, dobbiamo avere so, quindi poco da fare, certo. Ormai tutti quanti sono venuti all'osso. Adesso ci sarà il prossimo anno un nuovo IMU, ma tanto sta ancora e quindi daremo i soldi allo Stato. La crisi è già crollata, troveremo anche noi, troverà anche la Spagna, vedrà che finirà l'euro, lo dico io. Diciamo se mezzo la merda è stato prudi, se fossimo stati come una volta con la lira, siamo stati anche bene a quest'ora. Non c'è stato questo cazzo di spoglio, non c'è stato nulla. E ho vissuto tranquillo, invece la cosa siamo con questo carbo di euro, siamo messi in mezzo alla sacca. Siamo purtroppo sfruttati dalle banche, da quel centro di terza affari, fanno quello che vogliono con i soldi degli altri, giocano con i soldi degli altri, quando perdono loro non perdono niente, che prendiamo siamo noi per sanare i conti. Guarda, è facilissimo da capire, io molte volte quando ascolto la gente mi rendo conto che non ne hanno colpa, perché le persone sono mal informate, la disinformazione ha portato anche ha generato tutto quello che non serve nella politica, che oggi è diventata un gioco di poltrone, un gioco di interessi, è diventata un ritrovo di magnacci, se vogliamo chiamarla così. E non c'è niente da fare, siamo su quel punto lì, perché l'italiano oramai non serve più a nulla come votante, cliente del politico, lo ripeterò sempre, e intanto vedremo i risultati, non c'è niente da fare, questo lo vogliono capire, sembra così difficile capire che l'italiano è cliente, ma basta vedere i risultati, tutti negativi, da sinistra a destra, perché ci sono i politici buoni, ma bisogna distinguerli, bisogna metterli su e lasciarli lavorare, sempre che non facciano la fine di Borsellino e di Aldo Moro. A questo punto iniziano le cose a cambiare. Andato a lavorare e stanno a lavorare. casa. Allora, non potevamo crederci da stamattina, non avevamo fatto la sua casa. Tu sei passare da cosa, posso capire i telefoni in negozio, dice, ma devo scendere. Sì, c'è una voce, vedi scendere, me ne vado a casa, così sei più tranquillo. Adesso mi è stato, dice, lo bambuta mia bala, è a Zaburo. Dai, dai, un buon prosciutto lì, tra 5 minuti dietro. Ah, sono Giamari. Che sei tu di da Spannuta? Se non fossi uscito con la canola a pesca presto, almeno sei andato a pescare con questo fresco. Pensano che sia un toccasana non conoscere la politica, quindi essere politicizzati nel modo giusto va bene, ma così no. Continuate, anzi continuiamo così che siamo sulla buona strada, che almeno distruggiamo quel poco che c'è, e così Ale ci sistemano ancora di più per le feste, approfittando della nostra grande ignoranza al voto, probabilità. Allora, ma come ti ho fatto che lavoro in nero, sto bene, sto tranquillo, quindi ogni sera la poppa ce l'ho, non devo andare a pagare nulla. E ma quando tu entri a fare lavori grossi, a volte ne prendo 10.000, 20.000 euro, lavori dove ci sono soldi, dove essere tutto in regola, qualcosa in nero naturalmente scappa anche a me, però quando prendi le cose in regola che devi essere per forza politicizzato, te la mettono dietro. Te la mettono dietro, capito? Ma vanne a comprendere, cazzo. Quando pigli lavori grossi, come dici tu, ti metto il calcio in culo, a parte quello puoi avere anche i soldi subito, tu ti avere i soldi anticipo del lavoro e poi il resto lo vedi dopo 3-4 anni. E tutto che ci lavori così. Ma ti lavori così non ne sappia quasi più nessuno, se non fatta. Lavori dello Stato, del comune, non ne piglia più nessuno. Perché non pagano, se la voglia pigliano così veloci, mi danno di là, stiamo andando quasi tutti così ormai, lavori dove si guadagna non ce n'è più, adesso c'è dove anticipi più che altro, non dove guadagni, prima anticipi e poi i soldi li vedi dopo 3-4 anni, dipende da loro, avanti Gianni, vi pigliate là dove sei all'inizio. Liscio, con 5. Adesso quando arrivo? E sono attaccato, guarda un po'. 6:15, dai. Così sono attaccato, dove vai? Solo che sto risparmiando che c'è la tua faccia in camera da 2000 volt, devo mi fa saltare il contattore. Bravo! Come mi senti lì già? Già te ti sento bello, la voce calda della frequenza, cambio! Metto la voce calda. Stavi dicendo che la voce è calda. La voce è valvolare, si sente. Addirittura, è scaldato dalla russa, Nati. Ti piacerebbe, ma purtroppo è solo una valvola. Antonello! Ecca, sono qua. E cosa si dice? Allora io si sei andato via, ha detto. Mi avessi uscito per la spesa senz'altro. Stava portando la bambina a uscire, quindi certo, magari stava andata all'ospedale a Rossi, che rientrerà. Ma non come sei, stava andata all'ospedale da Ruspin. Pronto, Gianni, mi senti? Avanti, signor Giovanni, avanti. L'avrebbe voluta lì una russa, ahi, di quelle che ha il centrogambe, che sembra un elmo di carabiniere nelle grandi parate a festa, la russa alta con gli occhi azzurri e bionda con i capelli. Norvegia. Siamo a Monterraso, sto seguendo la Monterraso, l'incrocio della morte lì tra Placamona e la BTV. Ok. No, ti sento sempre. Ti sento sempre, comunque arrivi. Avanti, pom pom. E va bene, Gianni, con quella stessa che c'ha voglia. Con quel baracchino, con l'antenna c'è forte. Si sente in tutti i posti, grazie a Dio. Capito. Senza Dio. Che lineare che sta uscendo. E quello, vabbè, c'è quella spinta, c'è una spintarella piccolina. Ci vuole ogni tanto. C'è di vento per me. Vuole il gabbo questo. Bro. Già. Ma poi? Sì. Oggi è bello pescare, vedi già. Col vento che c'è, cazzo, un po' di la venta e raccoglie un po' di così. Di politici, da Monte Cetruzio. Che vai a pescare poi dopo sei tre giorni a letto. Non conviene, c'è stato un vento, capito? Finché c'era stato bene, se non ci fosse stato un vento e la serata è stata cioè, freddo secco, se è stato anche bene o male, ma così con questo vento, oh via, ce l'ha per di buona anche nell'Africa e la festa è chiusa a me. Abbiamo andato via Cesse. No, siamo tutti qua, siamo come i lupi al varco, vero? Prego, quando sciù. Dai, dai, com'è già la serata, com'è? Serata? La serata, Gio Maria, è un po' critica, perché sono sceso a lavorare e mi hanno fatto tornare indietro, ho detto, no, non ci dovevo venire stasera, e dove sei venuto a fare, dove sono stato stamattina, mi ricordo a dare la benzina che me la paga. Gliela chiedi? Potevano telefonarmi e dirmi, non venire stasera che non c'è bisogno, se no ma sono andati, capito? A loro favore, no? Hanno visto che c'era poca gente, la mia malattia, se ci fosse stata poca gente magari non me l'avrebbero detto. Sì, comunque sia, prossima volta fai cosa? Fatti il football. Quando vengo la giornata così, pigli i telefoni, verso le 4, appena apri i telefoni, ma ci devo scendere giù, cioè, no, non c'è bisogno, allora me ne vado a casa. Se no è inutile che fai un viaggio a vuoto, capito? Dà anche fastidio una cosa del genere, non tanto perché è un potere di lavoro che ce l'hai per sempre, ma scendere così, a meno che voi non fosse stata lei, una bella giornata, no, ne avete anche approfittato, avete fatto un giro magari e avresti passato una mezz'oretta, ma per quel freddo che c'è, col vento che c'è, non puoi fare nulla. Ma come andare a pigliarti per dire una pizzetta puoi fare, e che ti cancelli le ossa lì, specialmente la produttore, il mercato lo prende in pieno. Sì, pure è un freddo, scusate, è un altro freddo che c'è. Antonio, ma tu il casero lì palusese? Io sono qua a casa, sono libera, perché? Non sono mai uscito stasera, figurati. Ma perché sono telefonato a me, lo so che ce ne faccio un giro. Ma per me non c'è problema, se vogliamo andare a farci un giro, andiamo. Sì, perché allora se lo chiamo, ve lo dico. Ma perché domani dobbiamo essere tutte le 10:30, se torniamo lo scotto. Ah, io devo svegliarmi prima, non mattina, perché c'ho un appuntamento alle 9:30. Devo andare da Angelo a controllare l'impianto d'antenna, ma già faccio in fretta, sarà una mezz'oretta lì o già. C'è un altro lato del pesce che non riceve, quindi devo scendere un attimo da Boico e prendo un amplificatorino, glielo piazzo e me ne sto salendo. Non è importante per quello. Sono 10:30, devo essere lì al quadrato. Vediamo un pochino là, adesso ti aggiorno là, ti aggiorno, mi faccio un colpetto e poi ti aggiorno. Io devo essere sveglio meno delle 8:30 qua a casa, perché lui viene a prendermi alle 9:30 in mattina. Scendo a casa sua, sistemo questa antenna e me lo sto salendo. ascoltano con la 5 stessa. Non parlo mezz'oretta, per fare questo amplificatorino per la sfida di pesce ne sto salendo subito. Non è un granché di lavoro che devo fare, a parte sopra un tetto non ci posso manco salire. Con questo momento manco si butta il ghiaccio. Stava gara, io griglia. Sì, i lampi ci sono oggi, amico, ne ha lampo che ho visto in questo momento. Lascia che si fumi di tutto, va. Anche le case dello Stato. Cazzo, non scende un fumo e fanno due città, ti immagini, ti buca con la vetrina là sopra, cazzo, illumina tutta la cosa. Primo che deve ammazzare in trotta. Quello ormai è in pensione, lui, la madre, sono tutti in pensione, anche i bossi se ne sbattono le balle almeno. Bello, e qui ci siamo noi, per carità. Che fine, ragazzi, che fine. Tu se senti quelli che telefonano alla Radio Padania ci sarebbe da andare a mettergli accanto un sicuro, perché sono uno più basso dell'altro. Sono convinti di essere in secessione, capito? Loro l'Italia non riconosco, loro sono padani, quindi si fanno rubare dal capo padano, hai capito? Più ruba e più lo vogliono bene, cazzo. Ah, se ruba anche quell'altro che c'è, così sono due. Bossi, Maroni, e poi ci mettono i coglioni di lì. Armiamo e partiamoci. Lascia stare, c'è un formicaio, è un formicaio proprio di magnacci. La politica non la puoi sopprimere così, è parte integrante del sistema, non c'è niente da fare. L'unica soluzione è cercare di capire il cittadino stesso cosa vuole prima e poi mettere in regola tutto ciò che c'è da mettere in regola, non prima fare casino e poi cercare di mettere in regola, non ha senso, non ha senso. Vabbè, ma è tutto inutile, già. Ehi, possiamo stare fino a domani parlando, però le cose concrete non si vedono ancora le cose concrete, promesse, e adesso c'è Berlusconi in campo di nuovo che si vuole candidare, facendomi le promesse che l'Italia sta andando allo sfascio, che deve cercare di rimetterlo in sesto, che qua e là, tanto per attirarsi i voti, poi vedete che sono ripiazzi, burletti. Ma lo sai quanti ce ne sono che ci credono? Massimo quegli imprenditori ladri, ce ne sono certi che hanno sempre rubato una vita assieme a lui, che sono l'articolazione della politica, e sono tutti lì pronti, e quel Draghi è sempre lì lo stesso. Mi è entrato in mano, io sono il banco notaio, provate a denunciare qualcuno per signoraggio, eh? Lo sapete cos'è il signoraggio? Ve lo spiego subito io. Il signoraggio è quello che praticamente fanno tutti quelli che stampano monete, e da ogni moneta c'è un tanto, un aggio, è la stessa parola, signoraggio, ogni signore ai tempi antichi aveva un tanto da una moneta. Allora, quelli sono tutti soldi in nero. Provate ad andare all'ufficio del Ministero delle Finanze e denunciate un qualsiasi produttore, qualcuno di questi che stampa monete per conto dello Stato, e gli dice che sta facendo signoraggio. Scappano via dagli uffici, vi temono. Denunciamoli tutti, andiamo all'isola di Malvento a vivere, tutti lì, facciamo un'isola di nudisti. Allora, quindi lì sono favorevole io. Sono favorevole, specialmente quando ci sono pervertiti nel governo, dai, ormai eravamo sulla buona strada, infatti non capisco chi abbia eliminato quell'onorevole mezzo minchia, mezzo figa. A chi dice guardi nel camerino, è privato. E quello che non posso entrare nel buio, eh. Lì c'hanno il ristorante, c'hanno il parrucchiere, tutto quello che sia, quello che sia, mangiano e fanno quello che vogliono. Facciamo anche noi politica, gira, facciamo il partito dei persecutori, i sardi, a una ora di una caccia in culo quando vengono a Pomotorse, come hanno fatto Cagliari, quei Cagliari italiani che hanno fatti sparire in elicottero da qui. Igor, ma è sempre la stessa storia, lasciamo perdere, guarda, le commenti per dire questo e quello. E si chiude il discorso, basta, tanto rimarrà tutto come non vi preoccupate, tanto noi siamo destinati a, diciamo così, a sopperire sotto le grinfie dei politici, basta, sappiamo fare bene solo quello, non sappiamo fare altro, poi il resto è tutto quanto quello che ci vuole per far capire all'italiano che è testardo come un mulo. Tanto ovviamente. E io sono arrivato all'omicidio, mi faccio un lavaggio, mi cambio e sono pronto a uscire. Mi raccomando, questo freddo che esce fuori già, boh, per carità. Antonio, tu puoi stare uscendo? Non lo temo perché sono abituato a stare sotto la pioggia, sotto il freddo e così. Ma poi andiamo a qualche locale, no? Non andiamo all'aperto. Ah, allora va bene. E freddo ci deve essere freddo senz'altro. Meno male che c'è Gianni che sta bene, è in caldo, tranquillo e se ne frega. Dici a me? Ehi. Io cosa vuoi che mi faccia? Io sono uno sgobbone, un poliedrico che sgobba manca a destra, è più simile a un caterpillar che a una persona comune. Cosa vuoi fare, Gian Marie? Io mica la mattina vado a leggere le puttanate che scrivono nella Nuova Sardegna o ascoltare i puzzolenti dei media. Io la mattina sono preso i cantieri, o lavoro su macchinari di 30-40 euro e gai, cosa me ne frega? A me non me ne frega niente. Tanto al limite mi danneggiano sul fatturato, mi danneggeranno sull'IVA, faranno casino in quelle cose, no? 21% e gai. Quello è fatto. Ehi, va bene. Vediamo se non lo prenderà. Bello, è poveracci. Sempre a quelli che si troncano le ossa, capito? Non c'è niente da fare. È sempre la stessa storia. Ehi, hanno loro, comandano loro. E tu sei costretto a fare quello che dicono loro, c'è poco da fare. No? Sì. Ecco perché si azzuffano verso lì alla camera, nella poltrona, perché sanno che c'è da mangiare, a quattro ganasce proprio. Ma sì che dura, a me, ti dico una cosa, guarda, in quei tempi stanno belli belli per andare via. Oramai sono intercettati i ladroni al governo, c'è poco da scappare, capito? Non c'è niente da... ormai da dire, tanto i fessi comunque rimaniamo sempre noi, senz'altro, a brandire la spada del nulla contro i politici che intanto si riempiono le tasche di denaro alla nostra faccia, ignorante. Ecco, questo è il bello, Gian Marie. Hai visto cosa fanno, no? Io faccio un favore a te, tu fai un favore a quello, con l'altro un favore a quell'altro, e tutti quei pari tanto incassano e ognuno c'ha la sua parte, e poi dico, chi si accaglio è? E mentre invece sono tutti in mezzo, tutti implicati sono in queste cose, perché sono ammasso di ladri. In Costa Smeralda, il mio amico che fa parché, no? Quando è arrivato il momento di pagarlo, si è avvicinato il tizio con la valigetta, c'erano tutti elettricisti, poi c'erano muratori, parchettisti, c'era il fabbro, insomma tutti, fermo idraulici, aveva una valigetta, arriva il mio amico e dice quanti devo darti? 20.000 euro, per vedere gli sta facendo la ricevuta, dice mi faccia la cortesia. Quello, ma io dice sono, allora se vuole lavorare dice lavora così, altrimenti dice per cortesia se ne vada. Questo è il primo spunto. Il secondo spunto è arrivato l'operaio della forestale che stava rompendo i coglioni, che dice che non potevano tagliare gli alberi, no? Perché Berlusconi si doveva fare l'entrata per essere protetto, dice, una sorta di tunnel con due muri alti, 7 metri ognuno e lunghi 150 metri, dovevano sfondare tutti gli alberi sino alla sua proprietà, sino alla sua villa in Costa Smeralda. Una sorta di tunnel. L'operaio forestale si stava opponendo, quando si è opposto, sai cosa le hanno detto? Guardi, se non vuole perdere il lavoro e altro, se ne vada subito. Cosa te ne pare, Gio Marì? Beh, così, grazie allora. e poi uno dice all'altro, capito? E questi sono tutti in mezzo, capito? Quello è fatto, e per cui molte volte si chiudono la bocca e per cui lasciano fare e via, capito? Perché sa, va. Antone. Sì, però mi ha fatto. E cosa stavo sbuffando qui? Eri? Stavo dando un pochettino di acqua. Calda, anzi, un caldo caldo, con quello che vedi, 10 a 30 gradi con caldo adesso. Ma acqua, o quella roba un po' giallina? No, acqua, quella giallina l'ho bevuta a pranzo. Ho scelto da mio fratello. Me l'hai fatto un paio di lattine. Allora io ci credo, va. Allora ci credo. Vabbè, dai, buon proseguimento, dai, io chiudo che sto rompendo le scatole alla signorina qua, che ce l'ha chiusa da parte. Ok, dai, ci sentiamo, dai, buon proseguimento, mi raccomando, tieni di caldo. Ciao, Antonè. Ciao, anche a Gianni se sta ascoltando, chiudo. Riprendi già. Mi riprendo io là. Ciao Giomari, ci sentiamo, tante cose belle. Riprendi Ale. Yeah, ciao Giomari, ci sentiamo comunque con tutte le prossime. Avanti. Doppio boom, ci sei. Ha vinto, eh. Ale, che è un bisiere. Ciao. Lo senti tu, io non lo sento. Non lo sento più neanche io, addirittura. La sente la pentola. Va. Cazzo, quanto vuole fa. Bisogna che lo smonto di 80 fino a pulita lo sta avendo, è diventato rumoroso. Vai che c'è un aereo attaccato. Ma che allorella vale, c'è la sua intendente. Pare se metti un mira essere ma trubacchi si cazzo. In rigore. Vengo morto facendo, strano. No, non vedo che non lo faccia questo difetto qua. Vabbè, tante volte mi è capitato che non girava, né? Mi sono accorto perché il baracchino, se 80 c'è quel difetto, quando comincia a surriscaldare, si spegne da solo, non si riaccende troppo 5 minuti. Ma cambia di acqua da ventola, se questo è il problema. Gliela prendi nuova e ciscia, magari gioca in asse un attimino e fa tutti quei casini. E gliela cambio, sì. Gliela voglio mettere nuova. E gliela faccio così, infatti. Però c'ho 5 minuti di tempo, lo apro e lo faccio con la buona. Mi fa che bido che ci vuole, la manutenzione è buona negli apparati, gli allunghi la vita anche perché una buona ventilazione vuol dire, specialmente in quegli apparati lì che ne hanno veramente bisogno, la ventola deve essere una delle cose più efficienti, lo sai, no? Ma voi che lo so, se no si crepa di rinare. Ma la sta già c'è freddo qua sopra, all'ultimo piano, la parete è tiepida, anche perché sono dopo 5 watt di puntaggio per quel motivo che non fa scaldare, se ce la usare puoi disordinare, al limite, tipo, c'è un tetto qua lo scalda come un coso, adesso. Sembra uno scaldino, sembra, qualche giorno lo uso come coppetta elettrica, me lo metto in mezzo al letto. Oh, che tamondezza, eh. Porcheria, perché i lineari sanno fare, ma che si buttino dai punti, gente che ha rubato soldi a tutto andare, maestra, oh, io no, se no provo a pilotare appena altro, a tenere la porta anche un po' schiacciata, ne vedi di valvole saltando, se no non era bello il 2001, quel processo che si arroventavano le placche delle valvole, tutto uno schifo, cade, un rumore, sembrava l'aeroporto di Ciampino. Il 2001 sì, c'è quella piazza dove ci sono attaccate le valvole che si incendia facilmente, ci sono delle resistenze come la bombina lì sopra, quelle sono le prime che si incendiano, e anche le resistenze d'ingresso diventano subito nere, come piloti più di 5 watt si fu tutto, le resistenze da un chilo ho fatto. Perché le placche delle valvole sono tutto mal calcolato, poi le 519 sono valvole di deflessione TV, non sono valvole per restare IRF, sono applicate, basta, poi non hanno manco saputo usare, tutte sbagliate di polarizzazione, di pilotaggio, tutto un casino, sotto i culti in Treigue per dare l'impressione che una betumiera più fa rumore, più impasta. Capito? Cioè proprio l'impressione della betumiera, una sorta di porcheria realizzata per far spendere i soldi alla gente. Tutta schifezza. Oh, lascia stare, dai, hai visti come sono, fanno vomitare quelle realizzazioni. Io lo so, ma dai. Quello che c'ho io l'ho aperto anche con 10 watt tranquillo, qui c'ho 31. Questo funziona bene. Perfetto, quei watt già me li dà, centinaia già me li dà. Non di più, 120, 130, dipende. Da come si è città dopo un'ora. Ciao. Non si può raffreddare, nulla. Attenzione, doppio boom, ci sei, cambio. Montone, sei arrivato a casa, dice che si doveva cambiare dopo uscirlo, capito? Tutto lì, va bene, rimango in corrente, santo le lani. Ah, ok, va bene, no, va bene, io mi sono spostato per bene poco fa, quindi non faccio inteso, ma non ecco perché. Pensavo magari che... io posso andare a farsi la spesa. Va bene, ha bisogno ora. Fa la spesa direttamente lì dove compra, lo fanno tutti. Ce lo fa, che dopo si fa la passeggiatina e piglia un po' di fresco. Bye bye. Se Giovanni qua non vinco la Superauto, vado da Euronics, mi compro quel terreno di previsione da 1.077 euro, così mi faccio 700 euro di spesa dello spinta. Mi riempio il carrello. Faccio venire il team. E ai, fai così. E bisogna vincere prima però, Poi è un giro. Ma ci rimettiamo 50 euro. I biglietti. Allora si truffa anche quella, E siccome non riescono più a vendere, allora non scusi intatto. Tanto per gli italiani non gliene frega nulla. Se prendo un televisore di regalo per un buon acquisto per comprarsi per dire un altro televisore e costa 200 euro o 700 euro, dice non mi conviene, allora io ci metto d'accordo con magari con la Cobe, con i Suvie o con quello che è, e fanno 700 euro di spesa. Ho capito, perché hanno preso un cellulare con un botto di fame. In teoria, dicessero, non vuoi a comprare un televisore, deve spendere, per dire, 1.077 euro e 700 euro di spesa da fare. Oh, io ogni tanto ne vengono una. E ma tanto trovano lo scemo e ci scende, capito? Sì, lo scemo già lo trovano. Perché se, guarda, era meglio che avessero fatto, a posto di fare la spesa, avessero fatto, per dire, una cena, una... o come facciamo una volta, compri qualche cosa e ti fai un viaggio in aereo, ti paghiamo biglietto aereo per via o della nave allo stesso prezzo, ma allora sarebbe andato anche meglio, ti fai un viaggio e se la trovi in quel posto, ma la spesa a io, ma come siamo a quelli per gli essere morti di fame. No, questo vale. Via già. Ok, mi sono chiamato a te. Allora, facciamo la prima giornata a dire, se vi comprate questa cosa, vi diamo una casa in Spagna, pagate tutto, andate lì e abitate, ragazzi. Voi vi pagate le tasse. Ma di cosa stavate parlando? Primi Gianni. Eia. Ma mi intende? Gianni. E avanti. Chi sei? Buonasera. È un po' basso di emissione, ci sono rumori, capito? Ci sono dei rumori. Arrivi sotto un pochino, Ali, lo senti tu? Alessio. Alessio. Ali. Mi ha fatto spostare capi 2, non so, a fare canale, capito? Se vediamo qua, ha fatto angolo, mi senti? È positivo, no, perché ci sono dei rumori. Sì, sì, ho capito che sei entrato, è anche la più segnale, ma la modulazione è bassissima. Dio Mario, come lo senti tu? No, non lo sento, c'ho lo splatter io adesso. Ho capito. Sì, sì, a Ratanguru, ti ascolto. Da questa parte Giovanni, tiri avanti se mi ascolti. Adesso sto riuscendo a sentirti, sta arrivando 5-6. Allora, il QRM solitamente è 7-8 qua. Quindi i segnali sopra le 9 li sentono, le 10, anche quelli 5 quando si abbassa sento tutti, ovviamente il tuo segnale è buono. Però hai le segnale 9910 non è sufficiente a passare il QRM, tutto lì. No, ma aspetta appena, adesso ti sto sentendo. Non dovresti andare via, è ben sentito, avanti. Io ne sto usando 44 in questo momento. Ma dove stiamo andando? Da Ossiri? È positivo. Positivo. E ti ascolto, 5-6, te l'ho detto. Così riesco a sentirti, diciamo. E via. Comprati un apparato migliore, che apparato stai utilizzando? Ma il 58 dovrebbe essere più che sufficiente per le emissioni HF, quindi. Vabbè, comunque mettila a punto, dai. Sistema, insomma, fai qualcosa in modo che ti ascolti più alto come segnale, più buono anche come radio di conseguenza, eccetera, eccetera. Vediamo un pochino Gio Maria. Gio Maria. No, non arriva da me perché ho gli spazi da vicino e per cui è difficile, è difficilissimo. Siete solo il tratto e basta già. Gio Maria non ti sente, l'amico di Ossiri. Non ti sente Gio Maria, perché ha degli splatter. Fatti sentire ogni tanto. Alle prossime, buon tutto, ciao ciao. A lei ci sei? L'ha fatto spostare Gianni Capri2, non so, qualche canale, capito? Ha un Capri2? Non lo so, buio adesso di portare, ma lei è un uomo mollo, mi devo essere. Vogliamo ritenere musica Mari che mi chiesto di cuta. Alle prossime, buon proseguimento, buon tutto, tante cose belle, salutami tutti gli amici con frequenza, bye bye, bye bye. E ok, buona passeggiata, ragazzi, sentiamo alle prossime, dai, ciao. Faccio una passeggiatina almeno, beh, ok, ciao, già ci sentiamo. Ciao Ustra, non ritenere, ciao.